Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. La lingua è la veste del pensiero, ha detto il poeta inglese Samuel Johnson. La nostra mente, in ogni istante, crea e poi dà forma a idee, concetti, emozioni e sentimenti attraverso la parola. La parola prende corpo, diventa azione e innesca la comunicazione tra gli esseri umani. Per questo è così importante scegliere le espressioni giuste. Un problema che a Nanni Moretti nel film Palombella Rossa sta molto a cuore. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi. No, che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... No, non no, no, l'espressione, non è l'argomento, non è l'argomento, no, non preferisce, è l'argomento, è l'espressione, preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Preferisce rapporto in crisi, però è così kitsch. Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Se già non è facile avere cura della propria lingua, ancor più difficile è cimentarsi con le lingue straniere, soprattutto per noi italiani, che si può dire senza scomodare i dati dei sondaggi, in questo non abbiamo mai brillato. Invece, in ambito letterario, quello della traduzione è un problema che attanaglia gli studiosi da sempre. Prendiamo un grande classico, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Moltissimi autori hanno provato a tradurlo, intraprendendo un'impresa eroica. Giochi di parole, figure retoriche, proverbi, continui riferimenti alla cultura inglese hanno così stuzzicato la fantasia che alla fine ogni versione nostrana è risultata un libro a sé. La stessa questione a partire dagli anni 30 si è posta rispetto al cinema, dando vita a volte a veri e propri scempi linguistici, a partire dai titoli. Un esempio su tutti, la raffinata pellicola di Michel Gondry, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, l'eterno brillare di una mente candida. Bellissimo verso del poeta Alexander Pope, che in Italia viene ridotto a titolo da commediola, Se mi lasci ti cancello. Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone. Non sono andato al lavoro oggi. Ho preso un treno per Montauk. Non so perché. Non sono un tipo impulsivo. Forse mi sono solo svegliato un po' depresso. Devo far riparare la macchina. La sabbia è sopravvalutata. Sono sassi minuscoli. La nostra distribuzione cinematografica ha da sempre preferito, nella scelta tra sottotitoli e doppiaggio, il doppiaggio. Alcuni puristi sostengono che questo impoverisca il film, che nell'adattamento si perda moltissimo del fascino originario, ma non è sempre così. Anzi, a volte è capitato che le voci nostrane siano state le principali artefici del successo di un personaggio. A ricordarlo è l'attore e doppiatore Luca Ward. Se non ci fosse stata la nostra fantasia, non sarebbero mai nati personaggi come Jerry Lewis in Italia, doppiati da Carlo Romano. Ed è stata un'invenzione, in originale non era così. Se forse gliel'avessero fatto fare come era in originale, non avrebbe avuto quel successo. Da Jerry Lewis a Peter Sellers, da John Travolta a Marilyn Monroe, ogni divo americano per noi è come se avesse una voce italiana. E quando si parla di voce con la V maiuscola, a parte Frank Sinatra, si può parlare solo di un uomo. Ferruccio Amendola. Ferruccio Amendola. But if there's nothing shaken come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Il doppiatore è un vero e proprio mediatore culturale che trasferisce in un'altra lingua l'intero contenuto di una battuta, dal senso all'emozione. Il suo è un animo discreto, che sa farsi da parte, che sa concedere solo la sua voce per non mettersi mai davanti al personaggio e all'attore che lo fa vivere sullo schermo. Eppure, come nel caso di Ferruccio Amendola, tutto parte dalla recitazione. Figlio di attori, nipote di un regista e di una maestra di dizione, marito di Rita Savagnone, anche lei attrice, padre dell'attore verace e amatissimo dal grande pubblico, Claudio. In casa Amendola sembra impossibile non farsi venire una voglia irresistibile di salire sul palcoscenico. Perché è un mestiere che non si improvvisa, perché sottolineo il fatto che è un mestiere e che quindi bisogna avere delle qualità, bisogna avere soprattutto un'enorme passione. Ferruccio, quando è solo un ragazzino, dopo la scuola frequenta i corsi di teatro e tra le rappresentazioni dei classici attraverso cui tutti devono passare e la goliardia tra i compagni che gli rende sempre piacevoli le lezioni, impara giorno dopo giorno cosa significa fare la vita del teatrante. Io il teatro l'ho fatto nella maniera in cui si faceva allora, cioè facendo ogni stagione molte piazze. Gli spettacoli vengono venduti senza troppi accorgimenti logistici e Ferruccio, quando si chiude il sipario, corre in camerino a cambiarsi per incominciare a smontare la scenografia insieme agli altri. Prima si finisce e prima si va a mangiare. Il ristorante è il grande momento della serata. Tra le abbuffate alle 2 di notte e i numerosi brindisi a quello che è stato e a quello che sarà, si sta insieme, si incontrano persone nuove ogni volta, si accumulano aneddoti da raccontare agli amici che conducono esistenze più convenzionali. Il vino, per lo strano miscuglio di stanchezza e adrenalina, entra in circolo velocemente e il sonno, quando la mattina dopo c'è da ripartire verso un'altra piazza, sembra non bastare mai. È una vita eccitante e avventurosa, che però prima o poi può far perdere la rotta. E questo l'ho fatto per tanti, tanti anni. Ma a 24 ho cominciato a dire, ma siccome si parla di questo doppiaggio, io non mi potrei fermare a Roma per vedere se riesco a trovare una strada nel doppiaggio così. E ho detto, ma adesso ci provo. E mi sono fermato, pensavo di fermarmi qualche anno a Roma per tentare di fare il doppiaggio. Roma non fa la stupida stasera. E così Ferruccio, nato a Torino, diventa romano d'adozione. All'inizio fa un po' di fatica ad accettare di non muoversi, abituato com'è a ritmi frenetici. Ma la capitale, in cui in ogni angolo si respira l'incanto di un passato magico e sorprendente, scioglie anche il cuore di un uomo chiuso e all'apparenza un po' scontroso come lui. Come si fa a non amare Roma, la città più bella del mondo? Proprio in quegli anni la sta conoscendo e amando anche la lontana America, grazie alle vacanze romane di Gregory Peck e Audrey Hepburn. Ecco la bocca della verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde. Che cosa orrenda! Su, provate, provate. Ora fatelo voi. Certo. Va meglio ora, eh? L'America guarda con ammirazione all'Italia e ai suoi grandi registi. Ma è l'Italia che con i film americani sogna davvero. I doppiatori sono richiestissimi perché il pubblico vuole vedere sempre di più le grandi produzioni d'oltreoceano, così diverse dalle pellicole nostrane. E il loro ruolo, come ricorda Luca Ward, è fondamentale. Perché se una storia piace, è in gran parte merito loro. In linea di massima noi facciamo, cerchiamo di rispettare innanzitutto l'attore e quello che lui ha fatto e poi le vostre orecchie, perché noi facciamo parte di una colonna sonora di un film. Musica e voci e effetti sonori. Per Ferruccio Amendola, a Roma sta per cominciare una nuova vita. Mannali meglio grilli per fa cri cri. Più malandrino che c'hai, Roma, regge maremmoccolo stasera. Roma, fino agli anni 60, è una piccola Hollywood con Cinecittà 7 delle Meraviglie che cambia ogni giorno. Fa sognare i ragazzi che vogliono fare gli attori, le ragazze che per arrivarci passano spesso da Miss Italia. Ma poi arriva la televisione e ha sempre più successo. E allora sono i film americani che arrivano numerosi e portano con sé non soltanto un nuovo modo di fare cinema, ma anche tutto quello che sta intorno a quel sistema. Il divismo, con i poster e le scene di delirio collettivo, i nightclub fumosi in cui ci si può lasciare andare, i fotografi invadenti, che cominciano a essere chiamati paparazzi, e i party esclusivi a cui spesso non manca un tocco esotico. Insomma, tutto il mondo che viene raccontato nel capolavoro di Fellini, La dolce vita. Ma che ve detto io? L'unica autentica donna è l'orientale. Del resto, dov'era Eva? Nel paradiso terrestre. E il paradiso terrestre, dov'era? In Oriente. Là veramente l'amore è una cosa. Perché hai sposato me che sono di Frosinone? Allora? Ah, lo so che ho commesso un grande errore. Misteriosa, materna, amante e figlia insieme. La donna orientale ti dà la gioia di starti accovacciata ai piedi come una piccola tigre innamorata. Ah, vero. So 15 anni che questo parla dell'Oriente, ma perché non ce ne sta laggiù? Ferruccio Amendola vive questo momento magico, ne coglie a piene mani la leggerezza. Gli piace sedersi a un tavolino all'aperto e chiacchierare con gli amici che hanno le sue stesse ambizioni e impara a giocare a bridge, una passione che porterà avanti negli anni. Il sabato sera poi vado a giocare a bridge perché ho questo hobby e la sera quando posso vado a giocare a bridge oppure esco. A Roma c'è sempre qualcosa da fare e le occasioni per divertirsi spesso sono anche occasioni di lavoro. Non è difficile incontrare un produttore al ristorante e parlargli perché al suo stesso tavolo è seduto qualcuno che si conosce. Le pubbliche relazioni nella capitale vanno un po' così. Più che cercate e coltivate, sono portate dal destino. Sono veraci, istintive, sincere. E anche la svolta di Ferruccio arriva quasi per caso una sera mentre sta bevendo un bicchiere di vino con un amico. Le sedie in ferro battuto sono così vicine tra loro che il cameriere non può passare e i tavolini spogli senza alcuna tovaglia sono tutti pieni di bicchieri vuoti e bottiglie finite. L'atmosfera è da club buio di New Orleans e nella stanza al massimo si illumina ogni tanto la fiamma di qualche accendino. Sul piccolo palco di legno una band che arriva da Bologna sta preparando gli strumenti. Suonano jazz, quella musica di improvvisazione senza schemi, puro ritmo che Amendola scoprirà di avere interiorizzato moltissimo. La musicalità serve, il ritmo serve, proprio perché sono tempi musicali, proprio, soprattutto nella comicità, sono dei tempi musicali che devi avere, altrimenti non. L'amico di Ferruccio ha più o meno la sua età e fa il dialoghista, vale a dire l'adattatore di dialoghi. In pratica si tratta della figura professionale che all'interno del doppiaggio cura il passaggio dalla lingua originale alla propria. Più che una semplice traduzione, insomma, fa un adattamento che non è solo linguistico, ma anche culturale. Ferruccio fa un sacco di domande, è incuriosito da quel mestiere e gli chiede di raccontargli il film a cui sta lavorando. Si tratta di Un uomo da marciapiede di John Schlesinger, interpretato da un esordiente John Voight e da Dustin Hoffman, che il film Il laureato pochi mesi prima ha appena trasformato da caratterista sconosciuto a divo candidato all'Oscar. Amendola improvvisamente si illumina. La voce italiana del personaggio di Hoffman, Razzo Rizzo, un italo americano zoppo e tubercolotico, potrebbe essere la sua. Quell'occasione io pensai, ma perché non mi danno l'opportunità di fare un provino per questo personaggio che avevo capito che potevo starci bene? E lo chiesi a un dialoghista, amico mio, il quale si diede da fare e mi procurò questa chance. Il giorno del provino Ferruccio è senz'altro il più giovane e inesperto. Ha voglia di farcela, ma sente di essere il meno quotato per quel posto, che è ambitissimo. In quella situazione io non ero preso in considerazione nella maniera più assoluta, anche perché fino allora mi chiamavano solo per dire buongiorno, buonasera, o facevo i lifti degli ascensori. Nella sala di registrazione gli tremano quasi le mani quando deve appoggiare il copione sul leggio posizionato davanti al microfono e appoggiare la cornetta sull'orecchio. Ma istintivamente prende un bel respiro e dalla sua bocca, battuta dopo battuta, esce una lingua sporca, a metà tra la parlata romana e quella napoletana. Nessuno osa fiatare, ma c'è chi è già pronto a scommettere che quel ragazzo un po' ombroso e determinatissimo farà molta strada. Ehi, che ti prendi? Mi sono bagnato. Che hai fatto? Mi sono bagnato i calzoni e pure il sedile. Che cavolo? È inutile che ti ci metti anche a piangere. Io vado in Florida, sono tutto un dolore. Mi fa male il sedere, la gamba, i polmoni, mi fa male la testa. E c'è volevo pure che mi pisciasse addosso. No, te lo mi buffo. Io non mi diverto per niente. Ti figuri? Te lo figuri se adesso l'autista si ferma perché c'è una perdita d'acqua? Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see the faces. Only the shadows of their eyes. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Roma, è il 1968. E mentre gli studenti cercano di cambiare il mondo dietro le barricate, Ferruccio Amendola, che viene dal teatro, ha appena avuto la sua grande occasione per fare il doppiatore. La posta in gioco è fare la voce di Dustin Hoffman in Un uomo da marciapiede. I provini non furono scelti in Italia, i provini partirono per gli Stati Uniti e andarono a New York e furono scelti dal regista. Ferruccio pensa dalla mattina alla sera a quella risposta che deve arrivare da oltreoceano. Ha investito anni per riuscire a fare questo lavoro. Ha avuto la pazienza di accettare parti piccole e mal pagate. E adesso, anche se non dice nulla a nessuno per scaramanzia, ha la sensazione di potercela fare. Non si sbaglia. Per il regista del film, perfezionista al punto da scegliere personalmente le voci di ogni lingua, Amendola è l'uomo giusto. Quando riceve la notizia, fa letteralmente i salti di gioia. È la prima vera occasione, vuole dare il meglio. Studia perfettamente la trama, i movimenti, le intenzioni, perché tutto il significato del film passerà attraverso le sue corde vocali. E quando Hoffman, a migliaia di chilometri di distanza, vede il risultato finale, non può che applaudire. Lui è riuscito a personalizzare un ruolo che era già stato interpretato da un altro. È andato vicinissimo alla mia interpretazione, ma senza cercare di imitare. Si è posto al servizio del film con una dedizione mai vista. E se il film in Italia ha avuto successo, è soprattutto merito suo. Quello di Hoffman è un commento a dir poco lusinghiero, soprattutto perché viene da un pluricandidato all'Oscar e diventa inevitabilmente un biglietto da visita. Amendola inizia a fare il doppiatore a tempo pieno. Quando finisce un ruolo ce n'è subito un altro nuovo che lo aspetta. I ritmi di vita sono scanditi dalle registrazioni in studio e, come racconta Luca Ward, non c'è mai tempo da perdere. Lavoriamo a grandissima velocità. Pensate che queste persone girano un film, magari ci mettono 6 mesi, e noi poi un film come ad esempio Il Gladiatore o che diavolo ne so, lo svolgiamo in 1 giorno e mezzo, in 2 giorni. È un lavoro nell'ombra, quello del doppiatore, fatto di modestia e senso del dovere. È un lavoro artigianale, né di continuo equilibrio tra la voglia di recitare e la capacità di farsi da parte. Normalmente non si conoscono i nomi delle voci degli attori, anche dei più famosi. Non si sa che faccia abbiano, perché nell'immaginario il loro corpo è semplicemente quello dei divi che doppiano. E allora, come mai tutti abbiamo ben presente Ferruccio Amendola e lo reputiamo il più grande? Perché è entrato nelle case di tutti e non è noto soltanto agli addetti ai lavori, solo per la sua eccezionale bravura e sensibilità? Non solo. Se Ferruccio Amendola è diventato un mito immortale, è perché il destino ha portato lungo la sua strada un italo-americano dallo sguardo magnetico, che dall'Italo Italy ha conquistato il mondo. Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro, friends call him Bob. Sono molto contento di essere qui, mi piace molto l'Italia, sempre quando vengo qua. I'm very happy to be here. But I know that they don't mean that much compared with the things that are said when lovers touch. Never knew what I loved in you. I don't know what you loved in me. Robert De Niro è la quintessenza della versatilità. Forse un po' per esigenza, per istinto di sopravvivenza. Da bambino e anche da adolescente vive una solitudine così profonda che poi, quando il copione lo richiede, interpretare personaggi cupi e dall'anima tormentata gli viene in qualche modo naturale. Me ne stavo sempre in disparte, per conto mio. Avevo anche il complesso del fisico. Gli altri giocavano e io mi vergognavo. Ci sono voluti anni per capire che incominciare a fare sport era la scelta giusta. Avere un'indole malinconica non basta, certo, a diventare un mostro del cinema, ma spesso è un punto di partenza importante, perché sentirsi inadeguati può paradossalmente spingere su un palcoscenico. È quello che ha provato anche Paolo Villaggio. Vedete, si diventa attori per un motivo fondamentale: non ti piaci, ti senti mediocre, e allora usi la maschera. E allora senti dire: ho bisogno di fare il teatro, no, ha bisogno di migliorarsi, di fingere di essere un'altra persona. Bob ha deciso di andare a fondo del suo disagio, studiando recitazione in modo serio e tecnico, per mettere alla prova la sua capacità di relazionarsi con gli altri partendo dal gradino più alto. Stare davanti a un pubblico che guarda solo verso di te, non interpretando, ma diventando letteralmente qualcun altro. Per fare tutto questo, il posto giusto è uno solo: l'Actor Studio. L'Actor Studio è la più prestigiosa scuola per diventare attori che esista dal 1947. È nata a New York nel cuore della 44esima strada. Tra i suoi fondatori c'è il regista Elia Kazan, ed è proprio da lì che sono usciti talenti del calibro di Bob, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Tom Hanks, Al Pacino, Meryl Streep e Whoopi Goldberg, solo per citarne alcuni. L'insegnamento si basa sostanzialmente sul metodo Stanislavski, poi portato avanti da Lee Strasberg, che è costituito da poche regole, apparentemente semplici, ma che, se messe in atto in modo efficace, danno effetti esplosivi. Attenzione. L'interprete non deve essere né finto né falso. La massima dote è la credibilità. L'attore deve avere il massimo controllo del suo corpo, delle sue emozioni e delle sue reazioni. La personalità, i sentimenti e i pensieri del personaggio sono da ricercare in se stessi. L'attore deve annullarsi completamente nel personaggio, fino ad assumerne l'identità più intima e diventare l'immagine riconosciuta al di là del film stesso. Stop. Prima di girare il maratoneta, Dustin Hoffman non ha chiuso occhio per diversi giorni, per essere veramente stanco e non soltanto sembrarlo. E allo stesso modo Meryl Streep, per interpretare il ruolo di una violinista in La musica del cuore, ha studiato violino per 8 mesi, 6 ore al giorno, senza battere ciglio. Strasberg, a lungo a capo dell'Actor Studio, quando parla del metodo, ci mette una passione pari solo a quella del suo maestro Stanislavski. La realtà vive nell'attore. Stanislavski diceva sempre che l'attore non recita le parole, ma i sentimenti, perché la parte è fatta non di parole, ma del sottofondo affettivo. È quella la parte nascosta da scoprire dell'attore. È proprio quello che riesce meglio a Robert De Niro: non mettere in scena un personaggio, ma diventare lui stesso la figura che esce sullo schermo e farla vivere anche fuori dal copione, come se esistesse davvero nella realtà. E infatti, quando Martin Scorsese gli sottopone un nuovo copione dopo averlo già diretto in Mean Streets, De Niro accetta al volo, incomincia a studiare le malattie mentali e passa ore a fare il tassista. Martin aveva già chiesto a Dustin Hoffman, ma Dustin aveva rifiutato. Io nello stesso momento stavo anche girando in Italia 900 con Bertolucci, ma quello era il film per me. Lo volevo fare assolutamente. Dovevo essere Travis Bickle. Travis Bickle è un ex marine di 26 anni, alienato, solo, depresso, sessualmente frustrato, che soffre di una insonnia cronica che lo porta a lavorare come tassista notturno. Tra luridi film a luci rosse e i quartieri più tetri di New York, entra in una spirale di violenza che l'ipocrita società americana finisce per prendere come eroismo. L'anno è il 1976, ma Taxi Driver è destinato a diventare immortale. Vaffanculo, figlia di puttana. T'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. Avanti. Avanti, su. Io non mi muovo. Non mi muovo, dai. Prova a muoverti tu. E muoviti. Non ci provare, s***o. Destino. A Destini Incrociati è il 1976 e Robert De Niro, diretto da Martin Scorsese, ha appena finito di girare un film che è destinato a entrare nella leggenda, Taxi Driver. La pellicola appena esce sconvolge l'America. La sparatoria finale ha un'atmosfera di violenza così intensa che mantiene tutta la sua potenza visiva anche oggi. Ma Scorsese riesce ad aggirare la censura desaturando i colori della pellicola per rendere il sangue meno appariscente. La scena più famosa è quella in cui Travis fa pratica con la pistola davanti allo specchio e inizia un monologo in cui si rivolge alla sua immagine riflessa. Non era prevista nel copione. De Niro l'ha improvvisata, ma Scorsese ha scelto di tenerla. Due scelte dettate dal momento, casuali, ma forse servite su un piatto d'argento dal destino, visto che hanno contribuito a decretare la fortuna del film. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. È normale che i film americani finiscano nei cinema internazionali, ma in questo caso l'esportazione è una vera e propria esigenza che nasce dal successo stratosferico. Tutti sanno che ovunque sarà così, Italia inclusa. E oltre oceano si è sparsa la voce di quel doppiatore italiano che unisce una grande fantasia a un profondo rispetto, Ferruccio Amendola. A me stava molto a cuore la mia voce italiana, perché sono molto legato all'Italia, non solo per le mie origini. Dustin mi aveva fatto vedere la versione italiana di Un uomo da marciapiede e devo dire che Amendola aveva fatto un lavoro impressionante. Dal canto suo Ferruccio, anche se ormai è un doppiatore a tutti gli effetti, con alle spalle esperienza e tanta gavetta, è lusingato dalla proposta. Quando per prepararsi a doppiarlo vede per la prima volta Taxi Driver in lingua originale, è ammaliato dal talento di De Niro. Il suo rapporto con la macchina da presa è stato proprio una cosa di carnale quasi, cioè si è reso immediatamente conto che questo era il suo lavoro e che la macchina da presa la serviva, cioè se la metteva al suo servizio. Come da previsione, anche in Italia Taxi Driver con il volto di De Niro e la voce di Amendola è un successo. Le due cose, volto e voce, sembrano nate per stare insieme, tanto che quando esce quasi contemporaneamente a Taxi Driver anche 900 di Bertolucci, Amendola viene chiamato in automatico senza pensarci due volte. Sono io, Alfredo. C'è nessuno qui? Mi scusi, non vorrei disturbare. Ottavio non c'è. Tornerò un'altra volta. Ce l'ha una sigaretta? No, io non fumo. Ah, bravo. Bella notizia. Lei chi è? Sono Ada e voglio una sigaretta. Io sono Alfredo e voglio mio zio. E se De Niro va fiero della sua voce italiana, a cui deve sicuramente gran parte della sua fortuna in Italia, per Amendola, quello con l'italo-americano con il vistoso neo sulla faccia, che passa con scioltezza da un ruolo spietato a uno comico, da uno drammatico a uno divertente, è l'incontro del destino. Beh, è stato l'incontro della mia vita, devo dire. Dopo Taxi Driver e 900, quello tra De Niro e Amendola diventa un vero e proprio sodalizio che continua per ben 41 film. New York, New York, Il Cacciatore, Toro Scatenato, C'era una volta in America, Gli Intoccabili, Quei bravi ragazzi. Per gli italiani, Bob ha quella voce, qualsiasi cosa faccia. Per la prima volta Ferruccio, il doppiatore, esce dall'anonimato degli studi di registrazione e diventa importante tanto quanto l'attore che doppia. Anzi, De Niro sa bene e riconosce che a lui deve molto della sua fortuna in Italia. Sono davvero contento che sia Ferruccio a doppiarmi. A volte mi piace riguardare la versione italiana dei miei film e sentirmi con la sua voce. fa uno strano effetto. Se il rapporto tra i due funziona come una macchina perfetta, è perché entrambi guardano il cinema con gli stessi occhi, ci mettono tutta la passione di cui sono capaci e non interpretano un personaggio, lo diventano. De Niro l'ha imparato dall'Actor Studio, Amendola l'ha imparato più che altro dalla vita, ma il risultato non cambia. Sono entrambi veri, umani, con tensioni e pulsioni di tutti, ma che mettono in scena nei panni di qualcuno. Insomma, devo dire che De Niro mi ha dato delle grosse soddisfazioni. L'ho accompagnato nella sua carriera dall'inizio e lo accompagno tuttora, e ogni volta mi intriga sempre con questi personaggi che si inventa, queste caratterizzazioni particolari. Sono le stesse caratterizzazioni che ci mette lui, solo con la voce. Sporcature, slang, tic verbali, tutto serve a dare vita a quel corpo da riempire con l'audio, più di 1000 traduzioni filologiche. Ferruccio Amendola e Robert De Niro hanno incrociato il loro destino innumerevoli volte, e ogni volta, pur senza essere realmente a contatto, la presenza di uno è riuscita ad arricchire il lavoro e la vita dell'altro. A beneficiarne soprattutto sono stati milioni di spettatori, gli stessi che la notte dei telegatti del 1991 si sono emozionati di vederli finalmente insieme. Ferruccio Amendola. Ferruccio Amendola. Può venire qua Ferruccio Amendola? Ah, sì. Quante volte vi siete incontrati? Mai. Mai? È la prima volta che vi incontrate? Mm-hmm. Sì, sì, è la prima volta. Però posso dire di conoscerlo profondamente lui stesso. Certamente sì. E lui è molto bravo a doppiarla. Sì, veramente sì, sì. Le dà grandissima, grandissimo feeling e veramente anche un grande attore. Sì, ma è lui quello bravo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.